les garçons et les filles de mon âge, yo les vais de deux à deux passare. Tous les garçons et les filles de mon âge hanno sempre qualcuno da amare. E la mano nella mano, se ne vanno piano piano, se ne vanno per le strade a parlare dell'amore. Solo io devo andare, sola sola, senza amore, senza chi mi può dare un momento d'amore. Tutti i giorni e le notti sono uguali per me. Tutti pieni di noia e triste restare da soli così. Les garçons et les filles de mon âge fanno insieme i progetti d'amore. Tous les garçons et les filles de mon âge hanno negli occhi la felicità. E la mano, se ne vanno piano piano, se ne vanno per le strade a parlare dell'amore. Solo io devo andare, sola sola, senza amore, senza chi mi può dare un momento d'amore. I ragazzi che hanno la mia età potrei anch'io conoscer l'amore. Con i ragazzi che hanno la mia età avrò anch'io qualcuno per me. Con la mano nella mano, per andare piano piano, per andare per le strade a parlare dell'amore. Io l'aspetto per restare sempre insieme, solo noi, a sognare una vita d'amore.